Signore e signori, benvenuti. Io sono Edith. E siccome mi piace mettere i dischi alla radio, da un bel po' di tempo, ho pensato che questa potesse essere una ottima occasione per continuare a fare quello che mi piace. E poi c'è anche un fatto particolare, perché la scelta si restringe a un genere di musica che frequento in alcuni momenti. Non sempre, ogni tanto c'è il rock che entra, ma il jazz o i suoni intorno al jazz sono quelli che in questo momento della mia vita, esistenza, ascolti musicali sono quelli che mi fanno più piacere. Bene, abbiamo fatto un po' di presentazioni, abbiamo rotto un po' il ghiaccio, ci risentiremo sicuramente qualche altra volta. Le scelte musicali non saranno sempre uguali, sempre identiche, ci saranno sicuramente sterzate umorali all'improvviso, quasi imprevedibili, ma insomma... La cosa che mi piace è catturare l'attenzione di qualcuno che si imbatte all'improvviso in una stazione radiofonica, sente della musica particolare, l'attrae, ma sente anche una voce che può essere un'occasione per conoscere una persona nuova, e anche per me è un'occasione di conoscere persone nuove, perché si può immaginare quante persone in qualche modo, in questo modo, possano ritrovarsi tutte insieme ad ascoltare musica contemporaneamente. Già vediamo i film da soli, certe volte, no? Abbarbicati, arrotolati sul telefonino o sul computer, da soli. Al cinema si va insieme per stare insieme, il cinema si vede insieme, e anche la musica è un rito collettivo, è un rito collettivo che si verifica ancora quando ci sono i concerti, ma l'attenzione si è completamente così spappolata, no? Si vede qualche cosa, ma subito il cervello dice no, la devo filmare, la devo mandare sui social, e quindi c'è un distacco del godimento proprio, no? Forse sto parlando troppo? Vabbè, ho usato questo pezzo che si chiama Madeleine come sigla iniziale. E intanto mi serve per presentare un musicista che di sicuro non conoscete, o se lo conoscete siete fortunati, perché è abbastanza sconosciuto ancora. Si chiama Edoardo Nordio, è un bassista, e insieme a Giovanni Luisi hanno fatto un paio d'album piuttosto interessante. Uno è questo che stiamo ascoltando in sottofondo, da cui ho tratto Madeleine. Alla batteria mi pare che ci sia Cristiano Michalizzi, tutti i nomi che i musicisti che ascoltano questa stazione per ritrovarsi insieme ad altri amici e ascoltare il lavoro che hanno appena sfornato altri colleghi. Bene, ascoltiamo un brano da questo album senza parlarci sopra, sì. Più o meno, insomma, a me piace molto parlare sulla musica, eh? Cercherò di limitarmi. Ma è proprio uno stampo. Il brano si chiama Tune 88. Tune 88. Alla batteria Cristiano Michalizzi. Al basso Edoardo Nordio. Gio Luisi alle tastiere. Un certo Fiorentino, te lo conoscete? Daniele? Daniele Leucci alle percussioni? O al sax? Umberto Fiorentino alla chitarra? Tune 88. L'album si chiama Fusion Step. Con la S? Un altro musicista italiano che ho conosciuto con piacere si chiama Tony Pancella. È uscito con un album bellissimo, attorniato da giovanissimi musicisti molto bravi. Lui è un pianista. E il brano che ho scelto dal suo album In viaggio si chiama Arioso. Tony Pancella. Questo era il piano di Tony Pancella. La prima volta che ho sentito un suo album, subito mi sono innamorato di del tocco di questo pianista. Dopodiché gli ho raccontato che avevo comprato il suo disco e ci siamo sentiti e ci siamo addirittura conosciuti, cose che avvengono raramente nella vita, però quando avvengono è sempre una cosa bella. Lo so, dovrei andare a prendere la copertina del compact disc e leggere i nomi degli altri musicisti, tra l'altro giovanissimi e molto bravi. No, sono troppo concentrato ad ascoltare in cuffia questo disco insieme a voi e non mi va di alzarmi, andare di là a prendere il compact disc. E poi sui social, perché non scrivono i musicisti? E comunque ci troviamo al cospetto di un disco molto bello, molto di rapido impatto. Ti trovi subito all'interno di un bellissimo disco. Tony Pancella, non lo conoscevate? Sentiamoci un altro pezzo che si chiama Rocco Secco. Thank you. Stiamo facendo la conoscenza di un pianista. Io non lo conoscevo fino a qualche tempo fa, si chiama Tony Pancella. Tra l'altro ho scoperto che i suoi brani vengono suonati da tantissimi musicisti, anche americani. I suoi brani vengono suonati, riprodotti e suonati dal vivo da altri musicisti che li vogliono un gran bene. Ho visto che è stato ristampato da poco un disco che ha fatto con Gregory Rifkin, un trombettista, dedicato a Thelonious Monk, ed ero molto curioso di sentire di cosa si trattasse. Questo era l'ultima uscita, ma questo album credo che sia stato ristampato. Il brano che andiamo ad ascoltare si chiama appunto Monk's Mood. Gregory Rifkin e Tony Pancella. C'è qualcosa di molto interessante da parte di Tony Pancella nel ripercorrere il pianismo di Thelonious Monk. Bellissimo. In duo con Grigory Rivkin, Tony Pancella. Torneremo alla forma del duo, tromba e pianoforte. Un altro musicista che ho rivisto da poco e che mi piace non poco, Marcus Miller. Detroit. Io sono Edith e questo è Detroit. Personali, mi piace questo connubio tra Edith e Detroit. Edith e Detroit, ci sta bene. Poi un giorno vi spiego perché, Marcus Miller. Attorniato sicuramente da un gran mucchio di musicisti favolosi. Che naturalmente non sono scritti da nessuna parte. Se io volessi andare a vederlo, a saperlo e a dirvelo, non potrei. Perché? Perché non scrivono i credits. Detroit. Marcus Miller. Wow. Un gruppo invece che non incontro dal 1987 più o meno è questo qui. Qualcuno li avrà sicuramente riconosciuti. Sono, voglio sapere se avete indovinato, sono va bene, ve lo dico io, sono gli Yellow Jackets che hanno sfornato un album che si chiama Fasten Up, e questo è proprio il brano che dà il titolo all'album. Una sbirciatina ogni tanto ci vuole. Finale in avvitamento per questo gruppo che si chiama Yellow Jackets, famoso e favoloso, che ho visto nel 1987 a Houston, mi pare, in un bel concerto insieme a un chitarrista che in questo momento non mi sovviene, ma ve lo dirò fra poco. Quello che stiamo ascoltando invece in questo momento è, credo, il sound, un sound che mi attrae molto, molto di più dal sound un po' fusion che abbiamo ascoltato fino adesso. Lui è Michael Brecker. Ci sono Kenny Kirkland alle tastiere, Pat Metheny alla chitarra, Charlie Hayden al contrabbasso e il grande, grandissimo Jack DeJohnette alla batteria. Il brano si chiama, lo ricordo ancora quando ce lo presentò alla scalinata dell'Euro tanti anni fa a Roma. Nothing personal. Thank you. semplicemente straordinario, Michael Brecker, insieme a questo gruppo favoloso formato da grandissimi musicisti che sono, l'abbiamo detto poco fa, Jack DeJohnette alla batteria, Charlie Hayden al basso, Kenny Kirkland che suonava con vi ricordate, con Sting nel suo primissimo album e in tournée naturalmente. Vorrei soffermarmi un po' su questo album perché è veramente un sacco di tempo che non lo ascolto e ogni volta mi sorprende oltre la misura. Questo brano che è entrato in sottofondo, che mi ha sorpreso un po', si chiama CIZIGI. Sentite quanto è bello. Adesso sale, diventa pazzesco. Ponete molta attenzione perché è veramente un brano che vi porta via. Io sono Edit e questo è Michael Brecker. straordinario. Stavo considerando che di tutti questi musicisti che fanno parte di questo album, di questa registrazione, tutti sono rimasti immortali, ma su questo pianeta ce n'è rimasto solo uno. Questo è sempre Michael Brecker con questo nuovo strumento che si era portato, questo sassofono a fiato elettronico, un iwi della Kai. Il grande batterista Jack DeJohnette. Insieme a Charlie Hayden, col quale avrebbe poi inciso, se non l'aveva già fatto, un disco favoloso. Bellissima la partitura del basso. CZG. Michael Brecker, Jack DeJohnette, Charlie Hayden, Kenny Kirkland, Pat Metheny. Stupendi. Voglio restare con questi musicisti perché questa volta mi hanno veramente affascinato. Però voglio andare insieme a loro a sentire una. Volevo farvi ascoltare una ballad e mi piacerebbe che iniziasse sul bianco. Una bellissima ballad, un pezzo d'amore, abbastanza famoso. Infatti il brano si chiama My One and Only Love.

Che disco favoloso. Quando comprai Long Plane, questo brano non c'era, non c'entrava, è comparso dopo nel compact disc. Meraviglioso, My One and Only Love. Un disco che vi ringrazio di avermi fatto riscoprire, perché se non fosse stato per voi, per questa occasione, probabilmente non mi ci sarei risoffermato. E invece, ascoltandolo in cuffia, ci sono dei dettagli, Pat Metheny, Jack DeJohnette, vabbè, Michael... Ma ci sono dei dettagli meravigliosi. Un disco a cui torneremo senz'altro. My One and Only Love. Ed ecco Jack DeJohnette che ha lasciato la sua firma nel finale, ma straordinario. Abbiamo fatto partire sull'altro piatto un altro disco di un musicista, Joshua Redman, attorno al quale qualcuno di questi musicisti che abbiamo ascoltato adesso spesso si sono riuniti. Il pezzo si chiama Faith. Io sono Edith, sono contento di essere con voi, ma soprattutto sono contento se vi trovate a vostro agio. Joshua Redman. Abbastanza curioso il fatto che fra i credits c'è il famosissimo mastering Greg Colby, che ha fatto una marea di dischi, anche quelli del simpaticissimo Joshua Redman che stiamo ascoltando in questo momento. Cioè, il pianista lo devo riconoscere, forse potrebbe essere Herbie Hancock? No. Joshua Redman da un album che si chiamava Mood Swing. E adesso abbiamo nominato prima Charlie Hayden insieme a Pat Metheny in duo. Ed eccoli sorpresi in studio mentre registrano un brano che si chiama First Song, soltanto per voi. Thank you. sono dei viaggi musicali che sono talmente, talmente belli, talmente speciali, che vanno assaporati ad occhi chiusi. È una puntata molto particolare questa. Per alcuni è la prima volta che ci ascoltiamo, che ci sentiamo, che ci conosciamo, per altri è la conferma che questo è un luogo dove star bene. Bene, lasciamo un attimo queste atmosfere un po' rarefatte. Siamo al cospetto di un quintetto, diretto dal trombettista Roy Hargrove, Sopping the Biscuits. Thank you. molto delicato questo quintetto. Sentite con quale seta nell'impasto degli strumenti. Un bel suono morbido, sembra un'orchestra enorme, invece sono cinque elementi. E chi sono? A saperlo. No, dovrei aprire troppe pagine dei computer per poi dopo se mi perdo la musica. No, troppo pericoloso. Cercherò altre volte, andrò a cercare proprio i nomi e sarò in grado di dirveli, ma insomma potete farlo anche voi in questo momento andando a cercare Royal Groove Quintet. Il brano si chiama Supping the Biscuits, no, The Biscuit senza la S finale, insomma qualcosa che si fa col biscotto, adesso non vorrei andare a indagare. Molto bello, mi è piaciuto perché diciamo di solito la big band è sempre un po' d'impatto, violenta, invece qui morbidissima, una cosa favolosa. E adesso attenzione a questo giro di basso. Cucumber Slumber Weather Report. Thank you. Voi seguite sempre il bassista, eh? Adesso c'è Joe Zawinul alle tastiere che sta cercando di entrare, no, nella testa del bassista. Ah, intanto è entrato anche Wayne Shorter. Dopo Romao alle percussioni. Ishmael Wilburn alla batteria. L'album si chiama Mysterious Travel. Mysterious Traveler. E il bassista. E anche il compositore del brano si chiama Alfonso Johnson. Siamo nel 1974. Ma straordinari, favolosi, che cosa hanno combinato, eh? Questo giro di basso sempre presente. Ci sono delle incisioni che mi fanno impazzire di gioia per quanto sono belle e pulite. Di solito sono quelle della ECM di Manfred Eicher. Ho scelto una sonorità abbastanza particolare, si chiama Astrakhan Café. E lui è Noir Braham. Io sono Edith. Anwar Brahim, questo è Astrakhan Café Number One, e ci siamo entrati nelle sonorità delle CM, ma ne riusciamo subito per... O forse no, forse restiamo nelle sonorità ECM, però cambiamo musicista, lui è Joe Schofield. Il brano che ho scelto per ascoltare qualcosa di questo chitarrista si chiama Mr. Schofield's Waltz. Dalla bellezza della copertina, dalla qualità del disegno della foto e dalla grafica avrei dovuto subito capire che si trattava di un disco ECM. E probabilmente finiremo il nostro programma con le sonorità ECM. Ci penso bene, quasi tutti i musicisti che abbiamo ascoltato sono stati scelti e hanno lavorato insieme a Miles Davis. Non so, c'era Jack DeJohnette, Joe Schofield, Michael Brecker. Interessante. E Marcus Miller. Sia Joe Schofield che abbiamo appena ascoltato e Joe Lovano che stiamo per ascoltare sono venuti a suonare da noi in questo periodo. Joe Lovano si è trovato con un trio di musicisti, non vorrei sbagliarmi, credo cecoslovacchi, il Marcin Vasilievski Trio con Slavomir Kurkiewicz e Michael Mischiewicz. Bellissimo questo ultimo album, sempre per la ECM di Manfred Eicher. Una sicurezza per la qualità del suono degli studi di registrazione e per evidentemente anche un benessere dei musicisti che producono, quando registrano per questa etichetta, delle cose memorabili. Bellissima, bellissima anche la registrazione, anche la copertina realizzata con la tecnica dei pastelli a cera, no? Prima il giallo, poi un azzurro e poi forse anche un bianco sotto prima del giallo. C'è una big band. La big band di Terry Gibbs. Dal vivo al Summit in Hollywood, un brano celeberrimo, si chiama Day In, Day Out. Terry Gibbs al vibrafono e poi c'era Bill Perkins, Conte Canzoli, Richie Manica, John Mann, Frank Russolino e Pat Moran. Bellissimo, devo confessarvi che la big band è una delle forme musicali che mi fa più gioire quando sento un bel impatto sonoro. Buonasera, lei chi è? Buongiorno. So a che ora siamo, che ora è? Ah, lei, signor Palla di Cannone. Si ricorda di me? Eh beh, signori e signori, Cannonball Adderley. I remember you. Thank you. Albert Tutti Heat alla batteria. Wynton Kelly al piano. Cannonball Adderley alla sax alto, e sentiamo che sente molto ancora la vicinanza di Charlie Parker, che è appena scomparso, perché qui siamo nel 1959, Charlie Parker è scomparso qualche anno prima e ha lasciato tutti i musicisti orfani di un grande maestro. Però qui sentiamo che Cannonball lo omaggia, lo copia, lo cerca, è molto interessante. I Remember You, Cannonball Adderley Quartet, abbiamo detto anche i musicisti, meno male, e adesso un grande, signore e signori, col quale io vi saluto, mi congedo da voi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia nei miei ascolti privati di jazz. Eh sì, perché in realtà io questa scaletta l'ho fatta per me principalmente, ma se, siccome accidentalmente poi questo programma viene irradiato, quindi si insinua nelle vostre radio, e allora si rischia di riuscire ad ascoltarlo insieme ad altre persone, che è la cosa meravigliosa di questo giocattolo che hanno tentato di distruggere, che noi stiamo cercando di ricostruire, di rimettere in piedi, così come le cassette stanno di nuovo tornando in auge, le musicassette. In molti si fanno riparare la vecchia piastra a cassette e già ci sono dei dischi che vengono direttamente pubblicati già su musicassetta. Io vi ringrazio, vi saluto e vi lascio con una grandissima orchestra che si è riunita attorno a un grande trombettista che sarebbe scomparso di lì a poco. Lui è Chet Baker. Il pezzo si chiama All Blues. A risentirci. Ciao a tutti.